guardando lì, velocissimo. No. Sapete cosa è successo in questa piazza 40 anni fa? No. E se vi parlo di piazza la bomba di Piazza Fontana, la strage di Piazza Fontana, sapete qualcosa? Vagamente qualcosa. Cosa sapete? No, niente, tecnicamente penso che sia stato degli anarchici, non ho idea. So che là c'è la targa di un anarchico che è stato defenestrato, sembra, e basta, le mie conoscenze. I responsabili della cosa? Penso della defenestrazione sembra siano stati dei poliziotti. No. Però sulla strage non hai... No. Ma c'entrano gli anarchici nella strage secondo te o no? Non ho proprio idea. Se ti dico Pietro Valpreda ti dice qualcosa? Luigi Calabresi? Non le conosco. Strategia della tensione, ti dice qualcosa? Sì. C'è Mossad dopo il ventennio come repubblica in Italia per il governo. Grazie mille. Niente. Ah, scusate, dovete firmare perché sta facendo un documentario.